Allora, 5 maggio 2010. Allora, vi ho detto che vi avrei guidato in un percorso diciamo, non proprio di lettura del mio libro, insomma, sì, diciamo di lettura del mio libro A ritroso. Quindi ho cominciato dalla fine. Abbiamo, spero, più o meno, no, abbiamo fatto finora soltanto una operazione, cioè abbiamo fatto i conti con due versioni del postumano, entrambe inaccettabili, quella troppo favorevolmente contraria, troppo favorevole dei transumanisti, e quella eccessivamente contraria di una parte della sinistra marxista italiana. Diciamo, ci rimarrebbe da chiederci, allora, se un termine è così equivoco da generare letture così disparate, così diverse, ed entrambe così inaccettabili, perché usarlo? È una domanda che potremmo farci per qualsiasi dei termini che cominciano con la parola post, post. Però da un certo punto di vista vi ho anche già detto, credo che è una scelta quasi inevitabile quella di usare termini che cominciano con post per descrivere quello che ci circonda. Perché siamo più o meno consapevoli di essere in un processo di trasformazione abbastanza profonda, di alcune delle premesse o delle condizioni che hanno caratterizzato il mondo nell'ultimo secolo e mezzo, negli ultimi due secoli, insomma, sinora, ma essendo dentro questo processo di trasformazione non siamo bene in grado di capire. Non abbiamo una sicurezza, non siamo sicuri di quali siano le caratteristiche realmente più precise per definire positivamente un momento. Abbiamo soltanto, io ho diciamo, adottato il metodo foucaultiano di non separare la nascita di nuovi strumenti di discorso dagli oggetti del discorso. Questo è quello che più o meno mi guida nel tentativo, però questa cosa sola di per sé non basta. Allora, io propongo di continuare ad usare, provvisoriamente, perlomeno, il termine postumano, nel senso in cui l'ho detto varie volte, cioè considerando l'uomo come un oggetto di studio, un oggetto di sapere nuovo, piuttosto che una categoria eterna. E quindi in questa accezione del termine, il termine postumano segnala che siamo alla fine delle condizioni di condizioni che aprirono l'era dell'umano, l'era dell'antropologia moderna. Uno dei parametri, non dico l'unico, ma insomma uno dei parametri, comunque quello intorno a cui ho costruito il libro che ho scritto, quindi per forza di cose è questo. Uno dei parametri che possono servire per capire la transizione dal regime dell'umano al regime del postumano, dal regime dell'antropologia moderna alle trasformazioni, i metodi e gli oggetti del sapere che definiscono la nostra, che definiscono quella che Foucault chiamerebbe l'episteme, insomma una nuova episteme. Uno di questi parametri potrebbe essere quello di quello del valutare la centralità o meno, la presenza e le modalità della presenza della figura di uomini artificiali all'interno dell'immaginario di una certa epoca. Andando giù con l'accetta e semplificando molto, potremmo primo osservare che in qualche modo figure di uomini artificiali, figure di esseri umani artificiali, cioè costruiti dall'uomo ma che si comportano in una o in un, sotto uno o sotto l'altro aspetto come gli esseri umani, figure di questo tipo esistono in molte culture, non dico in tutte, ma sino dagli inizi di queste culture stesse, in particolare comunque esistono nella cultura occidentale. Troviamo degli esseri metallici che si muovono e fanno delle cose in Omero, quindi figuriamoci, nell'Iliade, oltre ai due coppieri umani o postumani, perché sono stati uomini un tempo, poi li hanno trasferiti sull'Olimpo, che sono Ganimede ed Ebe, i due coppieri maschio e femmina, quelli che vengono da bere agli dei, troviamo a un certo punto anche degli uomini di bronzo costruiti da Efesto, per uomini, insomma, esseri umani di bronzo, che sono chiaramente esseri artificiali. Troviamo esseri artificiali più o meno simili o comunque cose, li troviamo, non dico in tutti, ma in molti altri miti degli indo-europei, per esempio nei miti degli sciiti, non gli sciiti che sono una componente, una versione religiosa dell'islamismo, gli sciiti che sono gli antenati dei russi, insomma, e antica popolazione indo-europea i cui miti vennero raccolti a metà dell'Ottocento in una popolazione che abita una regione che oggi è tristemente nota per altre cose, che è l'Ossetia, quelli sono gli Osseti. E questa popolazione era vissuta isolata per secoli, secoli, secoli, in alcune montagne interne del Caucaso. A metà dell'Ottocento vengono scoperti da alcuni antropologi e esploratori, i quali raccolgono i miti, i racconti mitici di questa popolazione, che si erano conservati, e questa è la cosa interessante, quasi immuni da rapporti con altre culture, quindi in qualche maniera rispecchiavano, sia pure coperti molto tardi, ma rispecchiavano fasi molto antiche del mito europeo, comparabili a quelle greche, romane, eccetera. Ebbene, qua per esempio c'è un dio che è il dio della guerra, di questi miti, che ha una specie di corazza metallica incorporata, insomma, no? Quindi potrebbe essere. Ma adesso è inutile, non ha senso mettersi a fare una, insomma, un elenco, ce ne posso mettere. Però l'affermarsi della modernità porta con sé un rilancio di questa, cioè queste figure di uomini artificiali che ci sono sempre state, ripeto, ma in fasi, in momenti precedenti, in sistemi culturali dell'Occidente precedenti, prima dell'avvento dell'epoca moderna, hanno una rilevanza minima, non sono così importanti, ci sono così di fronte, insomma. è che noi oggi, che abbiamo l'occhio per quello, andiamo a cercarli, e quindi li vediamo, però dobbiamo cercarli veramente con il lanternino, con la lente di ingrandimento, insomma, non sono. Mentre invece l'uomo artificiale acquista una rilevanza con l'epoca moderna. Se pensate, per esempio, questo mi sa che nel libro non l'ho scritto perché. Se pensate per esempio a una delle metafore con le quali un filosofo francese del Settecento cerca di argomentare la sua filosofia empirista e sensista, se guardiamo questo potremmo essere stupiti perché Étienne de Condillac, uno dei fondatori del materialismo francese nel XVIII secolo, autore di un traité de sensation, per argomentare il suo sensismo, e chi è sapete come si chiama? Una famosa canzone di Gaspar Tipi, è una delle due forme del nome Stefano in francese. L'altra è Stefano. Allora, Condillac, quando Condillac vuole argomentare, vuole dire guardate che negli esseri umani l'unica fonte del sapere, eccetera, sono i sensi. Si immagina quello che oggi chiamerebbe quello che gli epistemologi di oggi chiamerebbero un esperimento mentale. Dice, supponiamo di prendere una statua. Una statua è un pezzo di marmo, inanimato, non vede, non sente, non fa nulla. Però se non è qui, questa statua ci sembrerebbe essere diversificata dagli esseri umani. Ma, dice Condillac, supponiamo che noi fossimo in grado a questa statua di fornire qualcosa di analogo ai nostri sensi. Diamole dapprima la vista. Per noi è facile, perché siamo lì, ci mettiamo la telecamera, cioè è ovvio. Non sa cosa ci sono le telecamere, cioè non sa, non mi chiedono proprio, sai, che tipo. Quindi fa delle cose, dice un po' più in generale, dice, supponiamo di poter dare a questo stato qualche strumento simile ai nostri occhi. Quindi facciamo in modo che questa statua possa vedere ciò che sta fuori di lei, eccetera. Poi pensiamo di darle qualche strumento tipo l'udito, insomma, e enumera i cinque sensi o quello che sia. E la conclusione di Condillac è che una statua di questo tipo, magicamente fornita di strumenti sensoriali analoghi ai nostri, a poco si comporterebbe come un uomo, a poco nella mente di questa statua, a poco con questa statua avrebbe una mente, e in questa sua mente si formerebbero i concetti esattamente come si formano nella nostra mente. Quindi se questa è una prova mentale, non fisica, non si può fare bene, insomma, se fossimo in grado di farlo. Sì, ho parlato di questo non perché voglio discutere sulla fondatezza o meno delle ipotesi empiriste e sensiste radicali, ma per dirvi, vedete che qua c'è un'idea, c'è una figura, c'è una, diciamo, nell'immaginario, addirittura anche filosofico, come dire, non sembra insensato parlare di una statua che si anima. Non sembra insensato perché il Settecento è esattamente l'epoca in cui cioè, gli automi diventano non proprio una industria, ma un artigianato avanzato. Perché diventano? Perché da un punto di vista produttivo, perché c'è la prima ondata della meccanizzazione produttiva, soprattutto nell'industria tessile. Infatti non è un caso che i due, che diciamo i due, il costruttore di automi più famoso del XVIII secolo, il signor Vaucanson, che costruì, a quanto si racconta, l'automa più perfezionato di quel secolo, che era un'anatra meccanica, più o meno delle dimensioni di un'anatra, la quale si muoveva, ma faceva un sacco di cose come le anatre vere. Questo Vaucanson, ripeto, chi era? Era uno specialista di telai meccanici. Uno dei primi campi, uno dei primi settori industriali in cui si provò a fare, già nel XVIII secolo, diciamo nel Settecento e anche ancora nell'Ottocento, però in cui si cominciano a fare le prime prove di macchine, addirittura automatiche, quindi che muovono quasi da sole dietro, senza, cioè, con una sorveglianza umana, è quello delle macchine per tessere, dei, diciamo, telai meccanici, automeccanici, automatici. Quindi, certo, fra il 600 e il 700, per esempio, poi, addirittura in altre zone d'Europa, per esempio fra gli ebrei dell'Est, fra gli ebrei dell'Est Europa, prende forma un altro racconto che è curioso, perché è un racconto, è un mito, è una leggenda, una leggenda, che però riguarda un personaggio storico, e addirittura vissuto poco più di un secolo prima. Siamo a Praga e parliamo del capo della comunità ebraica praghese, il rabbino capo, sotto l'imperatore Rodolfo II, cioè nella prima metà del XVI secolo, quando questo imperatore Rodolfo II, bizzarro membro della famiglia degli Asburgo, per breve tempo spostò l'impero, spostò la capitale dell'impero da Vienna a Praga, e Praga per alcuni decenni fu un centro politico e culturale in Europa, anche più importante di Vienna. Questo signore si chiamava Rabbi Löw, ed è un personaggio realmente esistito, e vive nei primi decenni del Cinquecento. Solo un secolo dopo la sua morte si comincia a diffondere una leggenda in ambito, in questi circoli ebraici, boemi, cioè slavi, polacchi, russi, anche insomma nell'est dell'Europa, che attribuisce a questo Rabbi Löw la creazione di un essere artificiale. Creato come? Creato praticamente ripetendo le operazioni che Geova compie nei primissimi versetti del Genesi biblico per creare Adamo. Cosa fa Dio per creare Adamo? Prende un mucchietto di fango, lo impasta come in tanti altri miti. Questo è un mito semitico, è un mito delle popolazioni ebraiche, ma cose analoghe trovate anche nei miti europei, soprattutto germanici. Sì, la cultura greca non è così chiaro. Nella cultura greca la razza umana nasce in due modi diversi. Nasce o perché Deucalione e Pira, che sono i due proto uomini, ma non impattano niente, buttano dietro le proprie spalle i denti del drago ucciso da Cadmo. Sì. No. E oppure in un altro posto, allora no, questo è Cadmo. Chiede di costruire un'immagine, un uomo con la creta, poi ma questo no, questo non c'è nei miti che citati, c'è un mito tardo, probabilmente è aggiunto dopo. No, questa cosa qui c'è invece nella mitologia germanica, cioè l'uomo viene creato dagli dei Asi e dagli dei Vani, che hanno fatto una guerra tra loro, dopo la guerra sono riconciliati, per sancire la pace costruiscono un cupazzetto di creta e questo è l'uomo. Però insomma, sono più i miti, come dire, semitica, però. Comunque insomma. Questo Rabbi Löw, secondo la leggenda, avrebbe rifatto quello che aveva fatto Geova, avrebbe quindi preso un mucchio di fango, l'avrebbe preso per terra, avrebbe recitato delle formule magiche intorno a questo corpo, girandogli intorno, facendo un giro, camminandogli intorno e recitando alcune formule, alcuni mantra, diremmo in termine diverso da quello ebraico, e questo essere si sarebbe animato. Questo essere è una cosa gigantesca. E infatti il suo nome, che è Golem, deriva da una parola ebraica che significa embrione, significa qualcosa di non pienamente formato. Questo golem viene costruito da Rabbi Lev perché per difendere il ghetto di Praga, cioè il quartiere di Praga in cui vivono gli ebrei, dai continui pogrom degli antisemiti del tempo, perché l'antisemitismo non se l'ha inventato né Hitler né Bossi né Sue, ma è una cosa vecchia, ha una lunga tradizione specialmente a est. Quindi anche il golem è un essere. Questo mito del golem poi dopo viene riscritto, perché c'è un. Ci sono diverse varianti di questo mito, comunque la storia in genere ha sempre un esito in genere drammatico, insomma. Cioè questo golem per un certo periodo funziona bene. Funziona perché ovviamente è un bestione privo di ogni discernimento, è molto forte, quindi riesce a respingere questi fighetti dei cristiani di Praga, giovanotti che vanno a fare i loro raid nel ghetto, diciamo, notturno. Se siete stati così, ti fanno tante per fare il bobo, ovviamente. Però a un certo punto succede che sfugge al controllo. Come lo controlla Rabbi Lev? Qui c'è tutta la storia della cabala ebraica, cioè di quella corrente della mistica ebraica nata tra il XII-XIII secolo, la quale, estremizzando alcune delle cose dette nella Bibbia, attribuisce alla parola un valore magico, quindi praticamente, e soprattutto alla parola scritta, ma anche alla parola parlata, insomma. E quindi c'è questa idea che la parola di Dio ha, cioè che quindi parlando, che solo parlando, che la parola in certe condizioni particolari abbia il potere di cambiare il mondo realmente, che è poi la convinzione di ogni pensiero magico, insomma, di ogni pensiero. E quindi probabilmente quando poi arrivano i grandi sistemi religiosi, insomma, monoteisti, questo come pensiero viene marginalizzato, però esso si ripropone a ondate successive nell'immaginario, diciamo, dell'Occidente. Ma la cosa che ci interessa comunque a noi è che questo non è il primo, ma una delle comparse più importanti di un essere totalmente artificiale, costruito dall'uomo, ma che si comporta come un uomo. Quindi il modo di attivare e disattivare questo essere è quello di mettergli e togliergli in una cavità che ha sulla fronte un cartiglio, un pezzettino di carta, una specie di roba tipo quella dei Vascellina, quelle robine lì, su cui c'è scritta la parola di. Solo che a questo punto dipende dalle varianti, questa poi leggera si trova in diversi manoscritti, ma insomma viene tramandata oralmente, poi qualcuno la comincia a scrivere. L'opera più famosa che ricorda questa figura è un libro di Gustav Meyrink della fine dell'Ottocento, ma in cui il golem non ha già più questa cosa, cioè è una serie di presenza che torna, come fosse una serie di spettro che torna, ma questa è la storia del golem, è questa. A noi ci arriva più che altro tramite il cinema. Agli inizi del cinema ha una grande come dire, fortuna tra le tante altre, insomma, nel cinema tedesco, espressionista, e in particolare uno dei personaggi più che è Max Wegener. Se mi sembra fa addirittura una decina di film, tutti su Golem, in cui c'è quasi sempre lui che recita ed è anche lui in intervista. In realtà noi di tutti i sfinci ne è rimasto solo uno e non so perché, se mi fate il più bello di ore, uno del 20 e qualcosa, non mi ricordo, comunque forse sul libro c'è, l'altro, 22, 34. E qui c'è lui che fa Thor, quindi questo uomo qua, lo dico, e quindi è forse questo che, cioè, che questa diciamo, leggenda, che la prima era limitata ad ambiti molto stretti, precisi degli ambienti ebraici, diventa più nota. In alcune varianti di questa leggenda, il golem si ribella semplicemente perché gli si svegliano gli appetiti sessuali, esattamente come dopo pochi secoli farà Frankenstein nell'altro documento importante dell'uomo artificiale che è Frankenstein, gli scrivere gli appetiti sessuali, quindi Anela aspirerebbe, diciamo così, a niente meno che alla figlia del rapino, che gli era la padre, che vuole. Però a un certo punto c'è una cosa drammatica perché non si riesce più a bloccarlo questo golem, quindi è la solita storia, no? La macchina che si ribella. E il rabbino non riesce più a togliergli, a mettergli la donna, però a un certo punto però non funziona più, insomma, no? Per cui anche con la cosa, anche senza il cartellino dentro alla fronte, questo gol continua a muoversi a fare casino, fino a che rabbino ha un'idea geniale, insomma, geniale, non so se si può dire geniale, e cioè sul cartellino Emet, che vuol dire energia, come del genere, semplicemente lui gli cancella la E e diventa Met, che vuol dire morte, riesce a rimettere il codice per la morte e il dolore si arresta. Questa è la solita storia che le parole, il linguaggio da solo riesce a avere degli effetti, come dire, una teoria della performatività del linguaggio molto radicale, ma poco scientifica, ma vale la pena rilanciare. Questo è collaterale, è un ramo diciamo laterale rispetto alla idea, alle fantasticherie degli automi. Però insomma, allora, diciamo, nel Settecento vengono costruiti un sacco, costruire automi è una delle cose più divertenti, pare che ci siano, complicate, complesse, perché è possibile costruire gli automi nel XVIII secolo e non era possibile nel XVI o nel XV? Perché c'è finalmente una tecnologia meccanica di precisione, sostanzialmente perché si è sviluppata l'industria degli orologi. Sono stati gli orologi che hanno stimolato, dapprima quelli grandi, poi quelli piccoli, che hanno stimolato la domanda di meccanismi sempre più piccoli, sempre più, precisi, con i meccanismi dell'orologeria. Non è un caso che cioè, è, come dire, storicamente istruttivo che un settore tecnologico si sia sviluppato sulla base di una svolta concettuale, perché è l'idea del tempo che cambia per far finire il Medioevo e far cominciare l'epoca moderna, certamente la stampa, certamente la società dell'America, ma per fare nascere l'industria bisogna misurare il tempo in maniera molto più precisa di quanto la misura il contadino che alza gli occhi e guarda dove è il sole e sa che ora è e se è nuvolo si deve arrangiare con altri indizi, no? Bisogna misurare con, quindi è la misurazione del tempo. Il tempo è l'orologio, la prima vera macchina dell'epoca moderna e nasce prima dell'epoca moderna, insomma, quindi sono i grandi orologi dei campanili delle chiese, poi a poco cominciano quelli sempre più piccoli, insomma, miniaturizzati. E cosa vedete? Possiamo dire che è l'industria degli orologi in cui si fanno i primi esperimenti di meccanica di precisione, quindi ruote dentate, dentellate, piccoline, spirali, molle, tutte queste cose che fanno i vecchi orologi meccanici, adesso quando li sono cambiati. Quando ero piccolo io ancora le orologi erano fatti così, cioè si aprivano e dietro si vedeva bilanciere, certe attività, vitalità, che era una cosa meravigliosa, orologi piccoli da polvo, però vabbè. Io ero un piuttosto distruttivo, poi ero volendo incapace di rimontare, però mi piaceva smontare, quindi per caso sarebbe di bello, infatti avanti, come ho visto. E chiedo chiaro la secondo orologio che ho smontato, ne ho prese tante che ho smesso di smontare, no, però ero interessato perché per smontare il software ci vuole un passo in più, ma no, però è figlio la cosa, no? Cioè, è un modo di pensare hacker. Poi io non ho mai veramente sviluppato il mio lato hacker perché sono stato represso dalla mia famiglia che ha sviluppato le altre cose, quindi mi sono salvato facendo altre, diciamo, depistando la mia volontà di hackerare su altri campi, tipo quello dei concetti. Però ci sono stati altri, di andarci così. Va bene, l'orologio. Quindi, automis. Tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento si scatena nella letteratura europea, ma soprattutto in quella tedesca, c'è tutta una serie di racconti e di fiction, diciamo, in cui sono protagonisti degli automi. L'autore più famoso sono in gran parte tedeschi, ma ci sono anche dei francesi. Il tedesco più importante da questo punto di vista è Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, che voi mi chiedete se si chiamava così per quella ragione, ed è vero, ma così perché il papà era appassionato di moto, quindi si chiamava Ernest Theodor Amadeus perché Hoffmann. Il quale tra gli ultimi decenni del Settecento, i primissimi anni dell'Ottocento, ma è la cultura romantica, la letteratura romantica o proto-romantica. Il racconto è il quale Hoffmann ha scritto almeno 7-8 racconti diversi in cui c'è un automa come protagonista, il famoso Der Sandmann. Der Sandmann, che come sanno gli appassionati di fumetto vuol dire letteralmente l'uomo della sabbia, poi c'è un famoso fumetto che si chiama Sandman, con una N sola di Alan Moore, che se non avete letto vi consiglio di leggere perché è molto bello. Der Sandmann è stato tradotto in italiano in vari modi: l'uomo della sabbia, l'orco in sabbia, il mago sabbiolino, eccetera, eccetera, sabbia. Era perché la cosa è con me. Allora, che cosa, perché è così famoso? Questo racconto è così famoso perché perché è l'oggetto di un importante passaggio di quasi un secolo dopo, 70 anni dopo, di Freud, di Sigmund Freud. Il saggio di Freud si intitola Das Unheimliche. Caro mio, se vuoi stare tranquillo. Unheimliche. Che è stato tradotto in italiano come il perturbante, cioè ciò che perturba. In realtà è una traduzione un po' approssimata, ma perché il termine Unheimlich tedesco è di difficile traduzione, il perturbante. Ciò che perturba. Che cosa vuol dire letteralmente in tedesco Unheimlich? Unheimlich, Heim è casa, lo home inglese. Heimlich è quindi casalingo, domestico. Lo Unheimlich è un prefisso negativo. Quindi lo Unheimlich è ciò che non è domestico, ciò che non è da che punto di vista? Ciò che non corrisponde a una domesticità. Allora, un Heinrich quindi è, si chiama un Heinrich, quindi das un Heinrich è un aggettivo sostantivato, è il non domestico, il non familiare, ciò che non è familiare. Questo è il modo che hanno i tedeschi per indicare qualche cosa, un'esperienza, che ha dei tratti di quotidianità, quindi che non è totalmente separata, che però all'improvviso, a un certo momento, rivela qualche tratto diverso da quello che dovrebbe avere. C'è dell'inaspettato, ecco, c'è il concetto di inaspettato nel termine un'armis. Quindi è ciò, è vero, ciò che ci perturba, ciò che ci turba, ciò che ci sembra diverso, che però è, cioè nel termine italiano perturbante non c'è questa, no, questa contrapposizione tra due diverse dimensioni, qualcosa che dovrebbe essere in un certo modo, che noi ci aspettiamo che sia in un modo, che all'improvviso diventa proprio l'altro. Se vi racconto brevemente la storia di Jan Sandman, capirete perché Freud, per analizzare il concetto di Unheimlich, usa questo. Perché la storia ci narra, il racconto, che è un racconto abbastanza lungo, ma è un racconto, non è lungo come un romanzo, ci narra la storia di Nathanael, un giovanotto, il quale nella sua infanzia è figlio di un costruttore di occhiali, padre costruisce gli occhiali, e mentre Nathanael è piccolo, è bambino, il padre riceve le visite di un ottico di origine italiana, il dottor Coppola, nell'originale tedesca, Coppola, il quale Coppola viene, e due si rintanano, il papà e questo Coppola, fanno delle cose misteriose, e il bambino è terrorizzato da questo Coppola, caduto, che ha una cosa, e quindi la madre utilizza questa bambina, dice guarda che adesso arriva l'uomo della sabbia, se non dorme, non si vuole, allora la storia dell'uomo della sabbia, sapete bene, è una storia, forse a voi vi è stata risparmiata, a me purtroppo, siccome ho un po' più di voi, nella mia infanzia non mi è stata risparmiata, quindi io proprio nel signor Timmy sono salvato per altre cose, ma avrei rischiato di ritengo, perché la storia di rompere i coglioni ai bambini e di tentare di terrorizzare per fare le sodomie, è una storia vecchia, no? Cioè c'è attento che se non dorme io... E allora, siccome tutti i bambini, questa cosa forse non lo so se è generalizzata, però è vero che almeno da piccoli quando ti si chiudono gli occhi, quando hai sonno magari non vuoi dormire, però gli occhi ti si chiudono, no? Hai una strana sensazione al palco, no? Cioè ti fa un piccolo un dolore, un fastidio, come avere della sabbia sotto gli occhi. Quindi in molte culture l'uomo della sabbia è il mago, la figura che fa dormire i bambini, ti mando questo. Però la mamma di Nathanael sfrutta, forse in modo diciamo così, per usare un eufemismo, non proprio secondo i dettami della più moderna pedagogia, sfrutta per dirgli stai buono, eccetera, eccetera. Quindi c'è un bambino terrorizzato da questo coccola, con le sue faccine nere, eccetera, eccetera, di ronco, la mamma che lo va. Dopodiché succede una cosa strana, c'è un misterioso incidente, lo studio del padre di Nathanael si incendia, scoppia, il padre muore, la famiglia si deve trasferire quando ancora Nathanael è piccolo. Il dottor Coppola scompare, Nathanael cresce e diventa un ragazzo più che adolescente, un giovane signore, quando è grande cambia casa e va a stare in una casa dove in questa casa, quindi il racconto divide in due parti, nella prima parte c'è l'infanzia di Nathanael, nella prima parte c'è Nathanael adulto che guarda e vede una bellissima ragazza passare per questa casa che sta sempre seduta, mi rendo conto che nella parte di bellissima ragazza non sono un granché, voi pensate. pensate, sta sempre seduta ferma davanti a una, e lui la vede da una finestra e si invaghisce di questa donna, bellissima, ha allineamenti perfetti, un viso di porcellana, una cosa. Bella. E sta con un vecchio signore che sta con Pelios. Questo però si vede poco, eccetera. Insomma, che voi vedete, ragazzi, c'è la tragedia qua, che c'è da ridere di un po'. Ma sono drammi della. Cioè, Freud ha scritto un'opera per spiegare quanto è drammatica questa roba qua, e loro dicono, ma che uno gli racconta il dramma e questo va bene. E allora per darsi in lavoro, allora gli parla, ma come sai, questo non gli risponde mai, però già lì sorride, sarà che lui si innamora, fino a che adesso non mi spiego come stanno le cose. All'improvviso finalmente Natalia scopre la verità, e la verità è doppia, ed è doppiamente, ecco il perturbante, ecco das Unheimlich, ecco l'Unheimlich, qualcosa che era familiare, sembra normale, invece è completamente diverso. Primo, la signorina che si chiama Olimpia, non è affatto una signorina, niente affatto, è una signorina automa. E chi è il Coppelius, il lettore accorto, se ne è già accorto, il lettore intelligente l'ha capito chi è? Non è altro che il vecchio dottor Coppola, travestito in qualche modo, di moderno alchimista, aveva dei traffici col padre, lo scoppio del laboratorio non era niente altro che una specie di punizione per una serie di proietti sulla sfera che i due portavano, che i due cercavano di fare, ma che Coppola è riuscito a fare anche senza il padre di Cernatani, e le ha costruito l'automa perfetto. È evidente che di fronte a questa doppia rivelazione, cioè che Olimpia non è una donna ma è un automa, e che Coppelius è Coppola, il povero Natale ha una sola scelta e quindi si suicida, come si potrebbe giustamente ben previsto che dovesse fare. Questo è il racconto di Hoffman, famoso oltre che per il saggio di Freud, anche perché da questo, da un racconto così drammatico, sono state sviluppate una serie di opere musicali di tipo invece più comico, è un famosissimo balletto chiamato appunto Coppelia, se capita mai, cioè, Coppelia non è altro che in cui Olimpia cambia nome, si chiama Coppelia perché lui si chiama Coppelius, insomma, quindi, vabbè, poi c'è anche il racconto di Hoffman, ma sta in un sacco di posti. Questo è il più famoso, ma ce ne sono altri, Achim von Arnim scrive dei racconti sugli automi, e poi naturalmente negli stessi anni, voi dite, questi sono i tedeschi, ma ovviamente neanche gli inglesi sono immuni da questo contagio, e quindi nel 1816 appare quello che addirittura alcuni considerano una specie di inizio ante litteram della fantascienza moderna, e cioè il romanzo Frankenstein, che ha un sottotitolo Frankenstein or the Modern Prometheus, o il Prometeo moderno, scritto dalla signora Mary Shelley e pubblicato esattamente nell'anno 1816. Mary Shelley è moglie, si chiama Shelley perché in realtà lei si chiamava Wollstonecraft, ma era figlia di una famosa femminista proto femminista inglese dell'epoca, però aveva sposato il grande poeta, il poeta inglese Percy Bysshe Shelley, il quale muore, nuotando nelle acque della Spezia di fronte a Lerici qua in Italia. Lei ha scritto varie cose, ma questa è la cosa più famosa che è quello che le ha dato, insomma, è per certi versi quasi più famosa lei, per certi versi per il marito, non per la lingua anglosassone, dove ovviamente Shelley si studia più o meno come noi studiamo Leopardi o almeno posto. Frankenstein racconta la storia di uno scienziato, anche lì, sempre lì, dietro a molte di queste storie c'è una pratica, quella della scienza, che viene spinta, diciamo, troppo al di là. Molti di questi racconti, sia di Antonio Rezzi, sono i racconti che qualche anno fa Gustloving e altri hanno detto i racconti del scritto con i tartini, ci sono cose che la mente umana non dovrebbe sapere, o ci sono cose che l'uomo non dovrebbe fare. Ho detto più brutalmente e cinematograficamente, non aprite la porta. Ci sono delle cose, ci sono delle attività che rivelano un eccessivo orgoglio, una hubris, una sopravvalutazione delle nostre capacità, insomma, e l'uomo quando fa certe cose fa dei guai, insomma, questo è il succo, questo è il punto. Frankenstein, spero di non doverlo spiegare, insomma, c'è un equivoco sul nome, di solito noi chiamiamo Frankenstein il mostro, ma il mostro non si chiama affatto Frankenstein, Frankenstein è il dottore che ha costruito il mostro. Frankenstein, che come sapete nel film, gigantesco, geniale, il film di Mel Brooks, Frankenstein Junior, se lo ricordate, Gene Wilder insiste molto Frankenstein, perché dice Frankenstein, pronunciare Frankenstein rimanderebbe troppo all'origine tedesca e quindi avvicinerebbe troppo a Hoffman e al clima romanzo cupo dei tedeschi, anche poi tutto il film di Frankenstein. Quella che ha appena la nomina, no? Di Cristo, di Cavalli, di lui, Frankenstein, infatti, guarda, Frankenstein, sì, ho arrivato Frankenstein, Frankenstein, pronunciamolo alla americana. Bene, Frankenstein è la storia di questo scienziato, Victor Frankenstein, che vuole, che sfida i limiti della, diciamo, natura e vuole costruire un uomo artificiale. Come fa? Manda nel romanzo, lo stesso nel film, sia nel film, sia nel Frankenstein originale, nel primo Frankenstein importante che si ricordi, che è quello di Jeff Wells del 33 o 34, sia nei innumerevoli remake che l'hanno fatti dopo. Siamo a Frankenstein Junior, forse per il Frankenstein Junior. Uno dei tormentoni del film è che Marty Feigl, che è gobbo, ha la gobba volente e poi voi sapete perché? Non sapete perché, sapete perché nel film di Whale effettivamente a seguito di un errore della segretaria di difesizione, Whale non si era accorto, girano qualche scena con la gobba da un lato, qualche giorno dopo che la scena e si sbaglia diventa la gobba dell'altro lato, quindi c'è effettivamente l'errore, c'è nel film originale. Mel Brooks, che era uno stronzo, ma geniale, decide di fare una parola, cioè come dire, decide di fare un elemento del film, per cui gli fa spostare la gobba dalla parola, lo fa apposta in questo caso. E quindi insomma Frankenstein decide così di questo, quindi manda, procura un po' di cadaveri e con l'aiuto della elettricità, nella famosa scena, sia nel ormai è impossibile leggere Frankenstein senza passare attraverso la mediazione del cinema, che ho fatto talmente tante volte, e insomma, diciamo, due volte almeno con esiti veramente meno epocale di Frankenstein, che è brana di chi l'ha visto, si sentono con De Niro, ma più filologico per certi versi, ma molto più divertente ovviamente di quello di Mel Brooks. Va bene, insomma, e quindi qui abbiamo, in questo caso abbiamo l'uomo artificiale creato da. Torneremo su questa cosa perché obiettivamente la scelta, diciamo, narrativa, cioè il dispositivo di creazione di un corpo nuovo, insomma, è piuttosto bizzarro, perché in questo caso non si tratta né di metallo, come parrebbe suggerire Hoffman e molti altri, insomma, non si capisce legno, metallo, insomma, cose così, né del fango. In questo caso si lavora direttamente, come dire, è si potrebbe dire che il romanzo della Shelley lavora su una idea di biofantascienza, cioè scienza biologica, perché si usa come materiale un materiale organico, dei pezzi di corpo, che è morto, cioè di corpi morti, quindi di corpi che non funzionano più, non danno più la vita. Vengono assemblati insieme questi pezzi di corpo e gli si dà la vita con l'elettricità. Vedremo che in realtà poi tutto quello che viene dopo Frankenstein in larga misura dimentica questa geniale intuizione di Mary Shelley. Perché in effetti tutto questo insieme di cose, stiamo parlando di pochi decenni, il Der Sandman sarà del 1780 e rotti, non ricordo più l'anno preciso, insomma, e anche questo periodo, Frankenstein è del 1816, quindi insomma siamo ultimi decenni del 700, primi decenni dell'800. Fatto sta che quando verso la fine del secolo, dell'Ottocento, XIX e XX secolo, cominciano a nascere queste riviste di narrativa, chiamiamola sensazionalistica, insomma, in cui si raccontano avventure mirabolanti nei mari della Cina o in posti così, o si parla di maghi, di streghe, eccetera, eccetera, cominciano a un certo punto a entrare lì dentro, già verso la fine dell'Ottocento, anche racconti che parlano di scienziati che fanno delle cose un po' strane, e comincia a sorgere una figura che dominerà la fantascienza, quando la fantascienza nascerà commercialmente negli anni 20 del secolo XX, per buona parte, per una buona metà del XX secolo, quello del Novecento. Diciamo, il robot è l'uomo artificiale della modernità. Deriva dall'androide. Tutti questi qui li possiamo chiamare più o meno androidi. Deriva dall'androide del tardo illuminismo e del proto-romanticismo. Deriva da Frankenstein, che non può essere classificato, però è una figura un po' diversa, non sta in quello che si deriva dall'androide. Comunque, diciamo, dentro il robot ci stanno sia... Quindi Frankenstein non può essere considerato un androide? Gli androidi in genere sono costruiti con materiali artificiali, con metallo o con... Questo è strano, costruito con parti umane. È una figura strana, ripeto, sottolineo la... è una cosa che non è mai stata... Insomma, cioè, sì, qualcuno l'ha, come dire, sottolineato, ma insomma non è così... così chiaro perché, o perlomeno non sono così chiare le implicazioni, poi adesso alcune delle specificità infatti vengono fuori dopo. Diciamo, dal punto di vista dell'immaginario, il robot viene più dall'androide, da un certo punto di vista, cioè è un essere metallico, in genere, di metallo, e si vede che è di metallo, si vede, cioè... il quale però ha dei comportamenti simili agli esseri umani. In realtà il vero antenato del robot dal punto di vista della figurazione è il personaggio di un romanzo fantasy, non di fantascienza, un romanzo che è stato a lungo uno dei targhi della narrativa per ragazzi, e cioè niente meno che, immaginate bene qual è, Mago di Oz. Nel Mago di Oz, voi avete i tre, è l'omino di latta, è l'omino di latta del Mago di Oz, quello è un robot, è un omino di latta, il quale, se fate bene, cosa fa? Gli manca il cuore, quindi non so, perché è caduto il cuore manca al leone, cosa gli manca? Lui però comunque gli manca qualcosa che lui cerca. No, a lui manca il coraggio. Lui manca il coraggio, però manca il cuore. Già manca il cuore. No, l'omino di latta è una specie di... In realtà il termine robot non nasce nella fantascienza, come il termine androide non nasce perché non c'era, insomma. nasce il termine robot nasce nella letteratura, diciamo, cioè, chiamiamola mainstream, insomma, perché nasce nel 1921, quando uno scrittore poemo, guarda un po', quindi non proprio pregherese, ma veniva da lì, ricordo, che si chiamava Karel Čapek, dovete mettere il cappellino sulla C perché sennò gli ciechi leggono Z, quindi per leggere C ovviamente. Karel Čapek scrive nel 21 una commedia che si chiama RUR, R-U-R, che è l'acronimo di Rossum Universal Robot. Robot deriva da una... non ho ben capito mai, come non so le lingue slave, non si capisce bene se sia un verbo o no, comunque è una radice, dicono, una radice verbale, robota, che in ceco e in altre lingue slave significa faticare duramente, un po' come il verbo inglese to hack, è la stessa cosa, poi dopo da, più to hack sapete che viene hacker, ma con una traslazione di significato con un generato un pochino diverso. Che robot significa in to hard, sì. Come Bravo. Okay. Allora, Čapek conia il termine robot da questo da questo verbo slavo di termine lingua slavo. I robot di Čapek sono dunque, la commedia viene messa in scena, che io sappia, non lo so nessuno, nel 22, la prima volta a Londra. Ha un certo successo, insomma, se ne parla un po' in tutta Europa. In realtà quando Čapek scrive negli Stati Uniti appaiono già da oltre 20 anni racconti che poi saranno chiamati fantascienza, che hanno come protagonisti o il compagno degli uomini metallici. Però ancora non si chiamano robot, si chiameranno robot dopo che, come non si chiameranno cyborg fino al 1960, quando c'è il nome. Spesso, come dire, l'oggetto viene creato il nome, insomma, il nome viene dato dopo. Comunque, il nome rapidamente, diciamo, Lara, che cosa racconta? È interessante, diciamo questo, perché è una, diciamo, nella commedia di Čapek questo elemento che è uno degli elementi che distinguono il robot dal suo antenato, l'androide, risulta chiaro. Allora, la storia è la storia di questo Rossum, che è un costruttore, un ingegnere, il quale si inventa una sostanza miracolosa, una cosa nuova, una sostanza la quale può essere lavorata sino a simulare la carne, cioè il materiale organico. Quindi i robot di Ur sono degli esseri artificiali, ma in realtà hanno sembianze umane, sembrano uomini. E Rossum riesce a trovare il modo di produrre questi esseri umani artificiali. Quindi attenzione, i robot di Čapek non sono metallici, hanno un aspetto umano, sono quelli che la fantascienza più tardi chiamerà robot umanoidi o nuovamente ancora androidi come nome, ma però lui li chiama robot, quindi c'è una... ma cosa sono questi robot? Una volta che lui ha scoperto questa nuova sostanza miracolosa, in caso di bla bla bla, ne fa uno, due, no, li comincia e li produce in serie. Produce in serie perché? Perché semplicemente per sostituire la forza lavoro umana. E perché fa questo? A scopo di profitto? No, è un filantropo grosso. Perché vuole fare in modo che gli uomini non debbano più lavorare. Al posto degli uomini finalmente lavoreranno questi questa nuova razza, questa nuova specie di esseri artificiali. E gli uomini potranno vivere felici, non avranno più niente da fare, non avranno più, naturalmente le cose vanno in maniera molto diversa. Perché mentre il vecchio Roscom è animato da questa visione filantropica, utopica, eccetera, eccetera, i suoi figli e quelli di più giovani della sua famiglia non si prendono metà, vogliono fare i soldi. E quindi succede un casino, c'è una, come dire, perversione di questo progetto originale del vecchio Roscom, ma soprattutto, passati pochi anni a, come dire, lavorare, sono i robot che si rompono le palle e dicono: ehi, siamo scemi, qua dobbiamo lavorare noi al posto vostro. Dice: ma che volete, andate a cagare. E fanno una bella rivolta e seguono quindi esterminano l'umanità. Sì, ma ce la servono, c'ha ragione, no? Nessuno si è ribellato. Il vecchio Roscom è morto, c'è un solo personaggio umano che l'hanno scompiato la storia, ma allora però finisce che a un certo punto nel casino vengono ovviamente ammazzati, distrutti, sterminati anche gran parte dei robot, rimane soltanto una coppia di robot, i quali Novelli, Adamo ed Eva si apprestano a, in qualche maniera, rinnovare la razza umana e a, in qualche maniera, diventare i nuovi uomini. Allora, qual è l'importante, sono tante persone, qual è uno degli aspetti più importanti di questa opera Ruhr per la fissazione di un, come dire, parametro? È che mentre, pensate a Versailles di Hoffman, mentre in Hoffman Coppola è un geniale artigiano e costruisce una donna artificiale, una, Olimpia, non le fa in serie, quindi diciamo l'androide, o se vogliamo usare il termine femminile, l'androide, nel caso di Hoffman siamo in presenza di una donna, quindi è un androide femminile, una chiamata androide, l'idea non l'ho valuta io, ma l'ho valutato un altro scrittore di cui vi dirò adesso. Diciamo, l'androide o l'androide sono dei prodotti dell'artigianato, di un artigianato molto sofisticato, ma sono pezzi unici, non vengono prodotti in serie. I robot di Čapek già vengono prodotti, già sono prodotti in serie. Sono l'androide dei racconti romantici, o l'androide è l'espressione di una eccellenza creativa degli esseri umani, e in qualche modo eredita anche lui una certa, da un certo punto di vista, questa caratteristica, è anche lui un essere. Il robot di Čapek è già invece un prodotto industriale, viene prodotto in serie e rappresenta, non è altro che una metafora in qualche modo, o perlomeno parla, racconta di come gli esseri umani vengono trasformati dal processo di produzione. Sono gli esseri umani, sono gli operai che lavorano in fabbrica, che continuano a fare gesti ripetitivi, come stiamo a vedere Charlie Chaplin in tempi moderni, nel modo più, diciamo, visivamente efficace. È questa, è la trasformazione dell'uomo in macchina che, diciamo, come processo contrario ci può far pensare di poter trasformare le macchine in uomo. È perché l'uomo si trasforma in macchina con il processo produttivo industriale che si può pensare di trasformare la macchina in uomo. C'è questo avvicinamento tra l'organico e l'inorganico, tra il naturale e l'artificiale, che può far pensare a questa. E ripeto, con una logica apertamente di tipo industriale. Il robot di Čapek non è un pezzo unico, il robot di Čapek è come dire, effetto della produzione in serie e diventa strumento della produzione in serie, quindi è un doppio processo. Il robot nasce come effetto di una macchina produttiva, diciamo, seriale, e a sua volta alimenta nuovamente una macchina produttiva seriale. Dietro a tutte queste storie, però, vedete che c'è la gran parte di queste storie, non dietro a Versailles, certo, ma dietro a Frankenstein, dietro al General Golem, dietro alla storia Patreon, abbiamo un modello di comportamento unico, praticamente. Cioè, l'uomo crea una macchina. La crea troppo intelligente, troppo ben fatta, troppo astuta, con troppe capacità. La macchina, prodotto della genialità umana, sa fare troppe cose. È come il detective che sa troppo nel giallo. E quindi si innesca nella macchina stessa un processo indesiderato nella macchina, anche se viene considerato fondamentale per gli esseri umani, quello della coscienza. La creatura di Frankenstein, si chiama la creatura, non ha mai un nome, la creatura di Frankenstein è cosciente di essere, di non essere un membro della razza umana, anzi di essere disprezzato dalla razza umana per il suo aspetto, perché è brutto, eccetera, eccetera, perché è deforme. Ma lui non aspirerebbe ad altro che all'integrazione con il genere umano. È il genere umano che lo rifiuta, allora lui si incazza e gli dice, ah Victor, e allora fammi una compagna, allora dammi una compagna, è tutta la seconda metà del libro, della medicina, di questo tormentone, di Frankenstein che gli fa sì, te la faccio il prossimo mese, vediamo, ed è così, bla bla, fino a che la creatura non si incaccia, le gira i coglioni di brutto proprio, e va in giro, stermina gente, e sto povero Frankenstein che lo risegue sino al Polo Nord, dove probabilmente muoiono, questo, il finale del libro è ambiguo, perché non si capisce bene se muore tutti e due, muore solo il codice, eccetera. Insomma, è la macchina che si ribella al proprio creatore, la macchina diventa cosciente, la macchina è fatta troppo bene, troppo fine, ha un comportamento troppo fine, troppo umana, scusate. E quindi acquista coscienza, autoconsapevolezza, e quindi si ribella al proprio. Questo è il succo di tutte queste storie. I primi robot della fantascienza sono esattamente robot di questo tipo. E in effetti non sono neanche tanto memorabili. Sono sempre le stesse storie che si ripetono, uomini di latta, cose così, eccetera, eccetera. Poi, nel 1926, finalmente nasce il genere fantascientifico in quanto tale, ad opera di un signore che si chiama Hugo Gernsback, e che era un radiotecnico lussemburghese emigrato negli Stati Uniti, il quale oltre che esperto di radiotecnica era però anche appassionato di, in qualche maniera, letteratura, e quindi aveva diverse rivistine tecniche come radio, e appunto sono state riviste, ne fa una in più. E fonda questa storica rivista che si chiamava, forse non potreste ancora, Amazing Stories. Storie meravigliose, storie affascinanti, Amazing Stories. Nel quale dice in queste riviste io vi darò letteratura scritta come Edgar Allan Poe come Jules Verne e come Ernest George Wells, che sono, da quello che poi sono considerati i tre padri della fantascienza. Edgar Allan Poe, Jules Verne e Herbert. Tutti autori che probabilmente, a parte Verne, molto probabilmente, a parte Verne, non si studiano, non